ma per me questa vittoria è veramente il coronamento di un sogno di una vita, e quindi che si realizza, e forse ancora io nemmeno riesco a immaginare tutto ciò, ecco. Lei può convincere una moglie con i soldi a rimanere, ma se quella moglie ha deciso di scopare con qualcun altro, scopa con qualcun altro. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Io sono convinto che noi, come abbiamo sempre fatto nelle gare finora, alla fine ci potremo guardare tutti insieme negli occhi e dire che abbiamo lasciato tutto sul campo, tutto quello che avevamo sul campo. Siamo molto contenti tutti insieme per essere arrivati qua in finale, ma per completare l'annata che abbiamo fatto dal primo giorno che abbiamo conosciuto il mister, che ci ha dato tanto, bisogna domani scendere in campo e vincere la partita. La Spagna è una nazione che sta lavorando bene, però io sono assolutamente contrario ai copia e incolla, e noi siamo l'Italia e abbiamo tutto per esaltare le qualità che abbiamo a nostra disposizione. E questa è la musica di Mission Impossible. Davis Mangia se l'è scaricata come suoneria del telefonino. La missione impossibile della nostra Under 21 questa sera, in realtà tra poco meno di 4 ore a Gerusalemme contro la Spagna, per tornare sul tetto d'Europa a 9 anni di distanza dalla vittoria a Bochum contro la Serbia. Quella era la Under di Gilardino, De Rossi, Barzagli, che poi hanno sfondato nel calcio che conta, ma anche di Carlo Zotti, lo ricordate, speranza della Roma, poi sparito in Serie B in Svizzera. Questa sera siamo aggrappati alla classe di Verratti, ai lampi di Insigne, Borini, Immobile, però siamo aggrappati soprattutto alla speranza di portare a termine questa missione impossibile. Tutti convocati in diretta per fare la vostra riflessione sull'Under 21, per parlare di mercato, dell'incredibile sfogo di Daniele De Rossi sulle pressioni e sulle calunnie di Roma, e poi parleremo anche di che cosa sta per accadere nel mercato dell'offerta televisiva sportiva in Italia con lo sbarco di Sky, di Fox Sports. E parleremo di pallacanestro, vi annuncio la presenza del presidente della Federbasket Gianni Petrucci il giorno dopo le polemiche di gara 4 della finale scudetto a Siena. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete scriverci anche su Twitter @ tutti convocati. Insomma, siamo qui per parlare in questo martedì 18 giugno di uno che è tra gli appuntamenti più attesi dal nostro calcio, questa finale dell'Under 21. Intanto ci sono anche novità di calciomercato che stanno maturando proprio in queste ore, in questi minuti, novità che interessano soprattutto Antonio Cassano. Perché questa mattina si è letto sui giornali di un interessamento del Genoa all'interno di uno scambio che potrebbe comprendere Antonelli per l'Inter e anche altri nomi interisti in questo momento per il Genoa, ad esempio Alvarez e Schelotto. Ebbene, la novità degli ultimi minuti è che il giocatore è stato offerto anche al Parma nell'ipotetico scambio con Belfodil, e domani il suo procuratore Beppe Bozzo vedrà i dirigenti del Parma per cercare di capire se davvero c'è la possibilità che Cassano vada al Parma oppure al Genoa, non alla Samp, perché oggi il presidente Garrone ha chiuso definitivamente le porte a un suo ritorno in blu cerchiato, però sicuramente mi sento di poter dire Cassano l'anno prossimo non sarà un giocatore dell'Inter. Tutti convocati, 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. A proposito dello sfogo di Daniele De Rossi, di cui parleremo poi nel corso della trasmissione, sentiamolo, De Rossi. Sì, ci sono forse altre cose che mi danno un po' più fastidio della mia situazione romana, il fatto di dover sempre dimostrare, di dover sempre negare accuse folli o dicerie becere, diciamo quella un po' più grave. E di De Rossi e di Marchisio e degli altri casi di mercato che stanno rendendo un po' complicata anche la trasferta in Brasile della nostra nazionale, ha parlato anche Gigi Buffon, che di questa nazionale è il capitano. Sentiamolo. Il giudizio non posso esprimerlo io, ma lo esprimono loro mediante quello che fanno vedere in campo, no? E ieri insomma hanno fatto vedere di essere dei giocatori molto importanti per la nostra squadra. Intanto Branca pochi minuti fa ha detto che non c'è stato e non ci sarà nessun incontro con il Genoa per Cassano, che si tratta di boutade giornalistiche, è il calciomercato. Ugo da Milano, 800 24 00 24, buon pomeriggio. Salve. Prego. Guarda, approfittavo proprio oggi di telefonare perché l'avevo qui in gola. Io sto a Milano ma sono toscano. La situazione, la nazionale, siamo andati a fare gli europei con grosse speranze, con una bella squadra, secondo me addirittura devastante in attacco, e poi mandiamo almeno tre possibili under 21 eccezionali a fare un torneo di scapoli ammogliati in Brasile. Cioè, ma fin dove arriverà la follia di questa federazione? Ci sono serie possibilità che stasera perdiamo la partita con un minimo scarto, oppure con una per qualche defezione, magari imputata alla poca abitudine ai incontri internazionali. Quando avevamo, non dico il nome perché è talmente facile, tre giocatori straordinari. Sì, avevamo Balotelli, avevamo il Sharawi, Ugo, avevamo tanti, due o tre giocatori che avrebbero potuto essere utili per questa Under 21, anche De Sciglio ad esempio in difesa, però io penso che in questo caso Prandelli abbia già avuto sufficiente sensibilità nei confronti del lavoro di Davis Mangia. In passato ce n'è stata anche meno da parte dei responsabili delle nazionali maggiori. In fondo è successo anche all'Olanda, che abbiamo battuto in semifinale. Poi è evidente che la Spagna questa sera schiera dei giocatori che hanno alle spalle esperienze a grandissimo livello che sono nettamente superiori a quelle degli azzurrini, però poi alla fine si gioca 11 contro 11, aspettiamo le 20 di questa sera e vediamo come sarà andata. Credo che se vincerà la Spagna vincerà semplicemente perché è superiore. Grazie comunque. Saluto e ringrazio Antonio Di Pollina, collega di Repubblica che si occupa di questioni televisive. Buon pomeriggio Antonio. Ciao, buon pomeriggio. Perché oggi in realtà era stato preannunciato già da un paio di giorni, abbiamo letto di questa rivoluzione in arrivo sugli schermi italiani, sbarca Fox Sports, i diritti di Liga, Premier League, Ligue 1, il campionato francese, la FA Cup, di nuovo sulla piattaforma Sky, dopo, almeno per quanto riguarda la Liga, un anno di buio. C'è però da capire se sia una buona notizia o no per gli appassionati italiani. Antonio. Visto che a quanto pare sembra un canale che si aggiunge dedicato a tutto quello che hai elencato, in sé per chi è già abbonato e se non ci saranno costi aggiuntivi, ma mi sembrerebbe davvero forte. Questa è la chiave solo... però io credo del discorso. Sì, però io li voglio vedere davvero quelli di Sky e dire se volete costa di più. Magari poi si trova un modo, ma sarebbe abbastanza perdente come mossa in sé, secondo me. Quindi diciamo che fino a qualche giorno fa c'era il problema serio di capire in che modo innanzitutto confermare la Premier League, la visione della Premier League per Sky, come recuperare la Lega dopo appunto il blackout dopo il blackout di un anno, e alla fine sbuca questa ipotesi Fox, che essendo di Rupert Murdoch che ha anche Sky, era abbastanza al momento difficile ipotizzarlo in concorrenza. Quindi ora come ora non ci sono segnali pesanti di un aggravio clamoroso per gli abbonati se vogliono vedere il calcio estero di livello. Chiaramente c'è una diversificazione abbastanza importante. Si era ipotizzato maniera un po' avventata, forse, almeno quello che sembra, che potesse centrarci in qualche modo Mediaset Premium e in qualcosa finire sui canali di Mediaset Premium, pare che non sarà assolutamente così. Francamente Murdoch può aver fatto la pace con quelli di Mediaset in Italia, però probabilmente c'è un limite. Io almeno in questa fase vorrei pensare positivo, come diceva quello, e provare a immaginare che semplicemente si aggiunge un'offerta importante in più con il calcio estero, e che invece di chiamarsi Sky Calcio 25 si chiama Fox Sports. Sì, e poi cercheremo sì. Antonio, anche di capire perché si chiamerà Fox Sports e non Sky Calcio 25, 26, 27 e chi più ne ha più ne metta, perché potremmo essere in realtà all'atto iniziale di una vera e propria rivoluzione. Qualcosa era già stato delineato nei mesi scorsi quando si era parlato dell'ingresso forte degli arabi di Al Jazeera nel mercato dei diritti in Italia. Ti chiedo però un minuto di pazienza, ci fermiamo per il traffico, poi ripartiamo da qui, traffico. E per quanto riguarda Mario, deve smettere di far vedere i muscoli, perché le munizioni contano. Comunque è stato bravo per il gol. Tutti convocati. Ma c'è questa regola di due gialli, non lo sapevo, la prossima volta non lo faccio. La regola dei due gialli che Balotelli non conosceva, noi non conosciamo ancora esattamente quale sarà il destino o l'eventuale prezzo di Fox Sport, il nuovo canale sulla piattaforma Sky che l'anno prossimo trasmetterà il meglio del calcio europeo. Sappiamo però Antonio Di Pollina, collega di Repubblica che si occupa di questioni legate alla televisione, che questo potrebbe essere, abbiamo detto, l'atto iniziale di una vera e propria rivoluzione, perché in tanti si sono chiesti per quale motivo Murdoch entra nel mercato italiano con un marchio diverso. C'è chi ipotizza oggi sui giornali che in realtà in futuro potrebbe sparire il marchio Sky e rimanere proprio il marchio di Fox. Beh, siamo in un ambito abbastanza di fanta qualcosa al momento, e vediamo davvero in futuro. A sentire quelli di Sky nei giorni scorsi che dicevano sì, su Liga e Premier siamo fiduciosi, ma evidentemente si veniva da un problema pesante di investimenti che bisogna fare e che non sempre magari rientrano o danno risultati immediati da questo punto di vista. Viene da pensare che Fox in questo modo diversifica il budget, per dire, o dispone di investimenti in quanto Fox, e vuole avviare un discorso in proprio, e quindi per fare quello i soldi li ha e in quel momento toglierebbe una grana pesante di tipo economico a Sky. Ripeto, si tratta di capire se il discorso poi rientrerà interamente nell'abbonamento che esiste già, per cui sarà semplicemente un canale Sky che si chiama Fox. Tanto per capirci, chi gestisce la questione giornalistica, chi saranno i telecronisti? Fino a ieri, ancora ieri sera, si diceva che saranno comunque forze Sky. Ecco, al momento Sky sembra mantenere le posizioni e poi ovviamente può mettere sul piatto della bilancia tutto il resto, compreso l'acquisizione della MotoGP dal aprile dell'anno prossimo. Quindi una mossa di quel genere in questo momento io non la vedo abbastanza giustificata. La rivoluzione vera e immediata sarebbe stata se fosse entrata davvero Al Jazeera, un marchio che fa davvero impressione se arriva e si prende il calcio, che peraltro trasmette ovunque. Ora come ora mi sembra invece un esborso importante di Murdoch che dice no, calma, per il momento giochiamocela ancora in proprio e poi vediamo per il futuro come va. Dopodiché basterà attendere per capire se c'è sotto una fregatura di qualche tipo per l'abbonato. Mi ostino in tempi di crisi a pensare e a sperare che non sia così, perché chiaramente di questi tempi mettersi lì e cominciare a chiedere soldi in più per persone che già ne spendono parecchi per avere chiaramente il meglio, non è una buona mossa per nessuno. Per avere in fondo un prodotto che comunque fino a due anni fa, con gli stessi soldi o anche qualcosa di meno, gli abbonati di Sky avevano, perché non era il medioevo quando con l'abbonamento a calcio o a sport si poteva vedere tutto. Però io voglio essere ottimista come te, Antonio, e quindi agli amici che ci stanno scrivendo anche su Twitter, chiocciola tutti convocati, c'è chi si lamenta perché è sparito completamente il basket, c'è chi minaccia di disdire l'abbonamento se Sky non riavrà i diritti dell'NBA, a tutti diciamo sta capitando una rivoluzione nel mercato dei diritti televisivi in Italia, però non è detto che sia penalizzante per gli utenti. Per chiudere, parlavamo di Al Jazeera, ho l'impressione che chi sorride possano essere i presidenti delle società di calcio. Già si preparava per il 2015 un'asta al ribasso dei diritti della Serie A, che fino al 2015 sono vincolati dall'attuale accordo che vale circa 1 miliardo di euro a stagione. Ho l'impressione che se si scatena una guerra i presidenti potranno in qualche modo monetizzarla. Sì, quei presidenti ci hanno guadagnato sempre e stai tranquillo che non ci perderanno. Non ci perderanno o comunque saranno sempre i tenutari di una situazione, di un prodotto ad altissima resa, ad altissima immagine, e quindi si sentiranno in una sorta di botte di ferro. Comunque viene da chiedersi quanto conviene, ripeto, di questi tempi alle TV, anche a quelle a marchio fortissimo mondiale, farsi delle guerre davvero forti. A occhio sarebbe l'unico settore merceologico, produttivo e tutto, dove avviene una cosa di questo genere in questo momento nel mondo intero. Dopodiché tutto è possibile, per carità. Basta avere un po' di pazienza. Grazie ad Antonio Di Pollina. Grazie a voi. Grazie ad Antonio Di Pollina. E allora 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta. Cominciamo dalla provincia di Napoli. Nicola. Salve dottore. Buon pomeriggio, prego. Buon pomeriggio. Una domanda su, per quanto riguarda Edinson Cavani. Sì. Allora, siccome molto probabilmente il 99,9% il Matador partirà da Napoli, come lei come vede se c'è la possibilità di arrivare a Zlatan Ibrahimovic, per me unico vero sostituto di Edinson Cavani a Napoli? Vuole che le do le mie percentuali, Nicola? Anche Mascherano del Barcellona. Allora, 0,0000% per Ibrahimovic e 0,1% per Mascherano. No, sono due giocatori completamente fuori dall'ottica del Napoli, che a mio parere però, Nicola, è un'ottica che dovrebbe rendere contenti i tifosi del Napoli, perché comunque dalla cessione di Cavani verranno ricavati soldi che De Laurentiis ha detto saranno reinvestiti sul mercato e serviranno per fare una squadra competitiva, secondo me anche una squadra da scudetto. Davanti arriverà certamente un grande nome, sanno più o meno tutti all'interno del mercato europeo che il Napoli punta Dzeko. Ecco, ad esempio Dzeko è un giocatore secondo me che in Italia può fare la differenza. Francesco da Pescara, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Volevo intervenire per quanto riguarda il discorso di Sky dei nuovi palinsesti, proprio perché come abbonato mi sento come sempre defraudato, perché diciamo che già l'anno scorso, togliendo la Liga, nonché due anni fa che c'era anche la Bundesliga nel palinsesto Sky, non mi sembra che il mio abbonamento sia stato ritoccato a ribasso, visto che io ho fatto un contratto per avere delle visioni di alcuni, sì, campionati. Però noi parlavamo, ne abbiamo parlato anche con Antonio Di Pollina, aspettiamo, vediamo che cosa succede. Non è detto che questo canale o questi canali di Fox Sport siano a pagamento in aggiunta. Io non accetterei scommesse. Antonio Di Pollina, lo abbiamo sentito, invece è convinto del contrario. Se avesse ragione Antonio Di Pollina, io credo che l'offerta della piattaforma Sky tornerebbe molto simile a quella degli anni scorsi. Prego. Sì, però io ho i miei dubbi, perché poi loro sicuramente impacchetteranno le offerte in modo tale che non penso che diciamo per gli abbonati ci sia solo un vantaggio. Difficilmente io vado Sky, anzi per realtà ho disdetto l'anno scorso per questo motivo qui, perché non mi sembra giusto che io sottoscriva un contratto per un servizio e poi questo servizio mi venga tolto, perché la qualità di Ronaldo, Messi, di quel campionato la insomma, come la Bundesliga evidentemente è stato un problema. Allora mi rispondono che metto la Formula 1, ma io non è che sicuramente sarà interessante, ma se a me non interessa, cioè non è che, o come in questo caso il GP delle moto. Come in ogni cosa, gli utenti hanno a disposizione la scelta di continuare o meno a seguire, a continuare o meno a comprare o ad abbonarsi. Grazie Francesco da Pescara, buon pomeriggio. No, era questa. Allora, noi ci fermiamo, ci sono le notizie di borsa e poi torniamo. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri SMS. Chiede Gianni da Napoli: Cavani nella nazionale è un altro giocatore rispetto a quello del Napoli, secondo lei cosa influisce? Beh, intanto io credo che influisca il fatto che molto spesso Cavani arriva in nazionale a fine stagione ed è un giocatore, Cavani, che non si risparmia in campo e quindi ci arriva, io credo, stanco, credo lo sia anche in questo momento, e poi in nazionale gioca anche in una posizione leggermente diversa, gioca più esterno rispetto a come gioca nel Napoli, gioca con un compagno di reparto che è Suarez, cui Tavares ha dato il ruolo di punta centrale, e quindi probabilmente anche questo influisce. Gianni da Parma, buon pomeriggio. Sì, buongiorno. Prego. A tutti. Niente, guarda, io volevo parlare un attimo di violenza negli stadi, perché qua si parla di mercati nazionali che fortunatamente stanno andando bene, ma non so se avete visto senz'altro quello che è successo. Certamente, a Lecce. Siamo da capo. Noi aspettiamo ancora, abbiamo la notizia, Gianni, di un arresto, abbiamo la notizia delle quattro giornate di squalifica al campo, però noi aspettiamo, l'abbiamo detto ieri, vi abbiamo fatto sentire anche l'audio di questa telecronaca concitata di quei momenti, sono tutti a volto scoperto e quindi aspettiamo di più dalle autorità di Lecce. Prego, sì, Gianni. Ecco. No, niente, volevo solo sapere che qua siamo sempre da capo, un arresto eccetera, ma la gente si lamenta che poi non va allo stadio, ma veramente io resto esterrefatto a vedere queste cose. Restiamo esterrefatti tutti, Gianni. Perché sembra che il mercato e le nazionali adesso sono l'argomento principale, giustamente, ma qui bisogna trovare un rimedio, insomma. Non è possibile andare allo stadio e rischiare di lasciarci la pelle. Non è possibile di lasciarci la pelle anche mettendosi nei panni dello steward che lo ha raccontato, guadagna 40 euro in una domenica e secondo me è l'eroe dell'ultimo fine settimana, almeno per quanto riguarda il calcio italiano, quello steward che ne ha prese tante per difendere la porta dello spogliatoio del Lecce. Grazie Gianni. Santo da Treviso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. A tutti voi. Niente, io volevo farle una domanda. Volevo sapere, secondo lei, se con l'arrivo, speriamo, di Gomez, la Fiorentina possa competere in una posizione un po' più alta di classifica. E volevo sapere secondo lei come la vede quest'anno anche come squadra. Ma io credo che certamente possa competere Santo per una posizione più alta in classifica, posto che la Fiorentina a 3 minuti dalla fine di questa stagione era qualificata per i preliminari di Champions League e quindi stiamo comunque parlando dell'eccellenza. Poi noi siamo andati avanti per una stagione a raccontare della mancanza nella rosa di Montella di una prima punta capace di finalizzare il gioco. Arrivasse Gomez, stiamo parlando di un giocatore di altissimo livello, un giocatore che ha segnato valanghe di gol in Bundesliga, in Champions League, e quindi certamente la Fiorentina farebbe un salto di qualità. Uso il condizionale perché ho l'impressione che le dinamiche di mercato difficilmente porteranno Gomez a Firenze, a meno che la situazione di Jovetic non si sblocchi in fretta. Grazie comunque e ringrazio anche Andrea Sorrentino, collega di Repubblica dal Brasile. Ciao Andrea, buon pomeriggio, anzi buona mattina. Ciao, buongiorno a tutti e buon pomeriggio a tutti. Buongiorno a tutti, perché immagino con un po' di invidia che vi siate risvegliati ancora con il sole e il mare. Abbiamo visto delle immagini meravigliose della giornata di ieri della Nazionale. Sì, ora su quanto all'invidia non bisogna mai esercitarla troppo perché poi è controproducente per chi la subisce, ma poi comunque qui siamo in fondo in un ambiente lavorativo, non siamo completamente in vacanza, nessuno, volevo dirlo a tutti coloro che dall'Italia ci mandano così maledizioni di vario genere. No, no, dicevo, no, comunque c'è stata un'accoglienza molto, molto piacevole per l'Italia. L'Italia si sta trovando benissimo a Rio de Janeiro, oggi si sposta a Recife perché dovrà giocare a Recife contro il Giappone domani, e chiaramente l'esordio vincente col gol di Pirlo meraviglioso e quello di Balotelli molto simbolico hanno cancellato tanti dubbi che c'erano stati alla vigilia dopo le ultime due amichevoli, e l'ambiente è estremamente più rilassato. Non bisogna dimenticare poi che siamo alla Confederations Cup, che con tutto il rispetto è poco più di un torneo amichevole, non è certo, è sì una competizione ufficiale FIFA, ma sappiamo benissimo che è essenzialmente una preparazione soprattutto climatica e ambientale al mondiale che ci sarà un anno dopo. Il problema è che qui in Brasile, magari ora lo sport si mischia con la cronaca, stanno accadendo cose che non accadevano, ci dicono, da quasi 30 anni, cioè dalla fine della dittatura militare. Qui c'è un paese in rivolta, ma davvero, ci sono stati scontri, incidenti, feriti, cose, spray urticanti lanciati dalla polizia, pallottole di gomma e di piombo contro i manifestanti. Insomma, c'è un clima abbastanza spiacevole e molto caldo, perché la vera cosa interessantissima dal nostro punto di vista è che i brasiliani non vogliono più essere considerati il paese solo del calcio, ma attraverso il calcio, perché in questo momento ci sono gli occhi di una parte del mondo sul Brasile, attraverso il calcio vogliono far conoscere il loro disagio, e lo stanno facendo conoscere in un modo molto, molto efficace. Sì, molto rumoroso, anche se sì, devo dirti che in Italia e in Europa queste notizie sono in gran parte confinate in trafiletti sui giornali. Mi pare di aver capito ce l'hanno su anche con le spese sostenute dal governo brasiliano per il Mondiale, per la stessa Olimpiade, perché non dimentichiamoci che il Brasile sarà protagonista, è protagonista in questi anni fino all'appuntamento olimpico del 2016, di fatto diventa il centro dello sport mondiale. Il tutto costa ovviamente miliardi e miliardi di euro, e l'esperienza greca del 2004 racconta che spesso questi sono investimenti che poi lasciano delle voragini nei bilanci statali. Infatti, da questo punto di vista il protagonista, il capofila della protesta che poi sta deflagrando in questi giorni è stato, udite udite, Romario, che a differenza di Ronaldo, che fa un po' il testimonial del Brasile e della Coppa del Mondo del prossimo anno, Romario è diventato un deputato del Partito Socialista al governo di Brasilia, alla Camera di Brasilia, e da un paio d'anni sta cavalcando la protesta proprio su questi che lui definisce elefanti bianchi, cioè gli stadi che il governo sta costruendo insieme ovviamente con la CBF, con la Federazione Brasiliana, e per i quali sono stati spesi molti soldi, si parla di cifre intorno ai 2 miliardi di euro. E quindi, dato che questo è un paese che è sì in grande crescita, ma è una crescita che si sta arrestando per via della crisi economica mondiale, ed è un paese che comunque mantiene profondissime problematiche legate alle differenze sociali e alle condizioni di vita di una gran parte della popolazione, e qui la protesta sta montando perché la gente dice spendete 2 miliardi di euro per gli stadi e non provvedete invece al miglioramento delle condizioni sociali, e tutto è deflagrato incredibilmente per un aumento del prezzo dei biglietti dell'autobus, che è passato da 3 reais a 3 reais e 20, cioè 20 centesimi di reais, che poi sono 7 centesimi di euro, hanno provocato tutto ciò, e il Brasile è davvero in fiamme. Sui giornali italiani piano piano la cosa prenderà piede, perché sì, poi piano piano comincia ad emergere. È defagato ieri. La leggeremo domani. Leggerete qualcosa di più, senz'altro. Certamente, discorso molto interessante, Andrea Sorrentino, molto sì, interessante, che io credo torneremo ad affrontare ancora in queste due settimane, certo, ma soprattutto torneremo a parlarne anche l'anno prossimo, quando l'attenzione sul Brasile sarà molto più alta di quella che è in questo momento, e certo, ovviamente resterà al centro mediatico anche della scena per un mese e mezzo, due, e penso che saranno temi di cui parleremo. Per chiudere, tornando alla nazionale, un minuto, dobbiamo attenderci qualche novità contro il Giappone domani rispetto alla gara d'esordio contro il Messico? Ma pare di no, pare che insomma Brandelli sia orientato a confermare quasi tutti, almeno in teoria potrebbe confermare la formazione che ha battuto il Messico. Secondo me c'è un pericolo Balotelli, perché Balotelli è già stato ammonito e con un altro cartellino giallo lo potrebbe che lui è sempre a rischio di cartellini gialli, potrebbe saltare la terza partita, che è poi quella decisiva del girone contro il Brasile, quindi bisogna centellinare un po' il Mario Balotelli, e io credo che per il resto l'assetto della nazionale rimarrà invariato, anche se poi oggi pomeriggio Prandelli comunicherà le sue decisioni in conferenza stampa, nel pomeriggio brasiliano, nella serata italiana. Nella serata italiana vedremo e capiremo che cosa intende fare il CT in vista della partita contro il Giappone di Alberto Zaccheroni. Grazie ad Andrea Sorrentino. A voi, a presto, ciao. Ciao Andrea, grazie ad Andrea Sorrentino di Repubblica dal Brasile. Scrive un amico da Napoli: un elogio a Insigne per la prestazione ma non per i capelli, per l'Under 21. Insigne che sarà in campo alle 18 a Gerusalemme per la finale dell'Europeo contro la Spagna. Tutti convocati. Io ho da esprimere tanta gratitudine verso i miei giocatori che hanno giocato due gare bellissime. Abbiamo perso la prima per qualche piccolo errore nostro, oggi abbiamo perso non per errori nostri ma per decisioni che a me non piacciono. Io credo che non è maniera di giocare così, io credo che non ci sia equità competitiva in una serie del genere, credo che non è giusto giocare sotto l'intimidazione costante del pubblico, non è giusto che un presidente che mette i propri soldi in questo sport non possa vedere la partita in maniera serena perché viene ricoperto regolarmente di insulti e disputi. Io credo che se la federazione e la Lega non intervengono in questo, qualcosa non funziona. E questo era lo sfogo di Claudio Toti, presidente di Roma, della squadra di pallacanestro di Roma, ieri sconfitta 81-71 a Siena in gara 4 della serie finale. Ma lo avete sentito, tra mille polemiche che stanno contrassegnando in un clima di veleni tutti i playoff di questa stagione della pallacanestro italiana, ed è un peccato perché accade in una serie di playoff, e lo stesso è stato nei quarti di finale e in semifinale, che dal punto di vista dello spettacolo e dell'attenzione anche dei mass media sta frantumando ogni record. E allora noi vogliamo parlarne insieme al presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, che saluto. Buon pomeriggio presidente. Buon pomeriggio a lei. È il momento più caldo della stagione da tutti i punti di vista, perché c'è uno scudetto da assegnare, c'è la pianificazione del futuro che ha molte incognite, basta leggere in questi giorni i giornali sportivi, ad esempio delle ultime ore la notizia della rinuncia di Casale ad iscriversi alla prossima Lega 2. Insomma, è un momento esaltante ma anche di preoccupazione per il movimento del basket italiano. Ma è il momento che attraversa tutto il paese, non è che lo sport non è tente, però devo dire che di fronte a società che rinunciano ci sono società che stanno emergendo. Napoli sta tornando in una serie importante, Treviso vuol tornare in una serie importante. Devo dire che il basket attraverso un buon momento, è un momento anche di febbre eccessiva. Questo finale di campionato non può e non deve essere rovinato da dichiarazioni, da eccessi. Stiamo battendo ogni record non solo di spettatori ma anche di audience televisiva. Questo è il campionato più interessante degli ultimi 15 anni. Tra gli eccessi le sette partite che ho trovate, non so se è giusto, sono tutte avvincenti certamente. È chiaro che lasceranno giocatori per la nazionale un po' affaticati, però questo era e questo dobbiamo rispettare. Sì, certamente da questo punto di vista l'esperimento di queste serie di playoff è stato particolarmente fortunato e ha acceso i riflettori sulla pallacanestro e sul campionato. Lei parlava prima di toni eccessivi e anche di scorie che rischiano di essere lasciate dalle polemiche di questi playoff. Ovviamente si riferisce anche a quanto successo dopo gara 4 tra Siena e Roma. C'è stato lo sfogo durissimo del presidente di Roma Toti. Mi riferisco a tutto. Io vorrei che la moviola fosse messa dietro a certi dirigenti dello sport e del basket. Per cui ogni fischio arbitrale c'è un reclamo. Possibile che gli arbitri, quando la propria squadra perde, hanno colpe, quando la propria squadra vince, il merito dei giocatori e dell'allenatore? Possibile tutto questo? No. sono in finale, ritengo, le squadre che ti hanno meritato. Purtroppo è retrocessa la squadra che forse meritava la retrocessione, dico forse perché certezza non ce n'è mai, e questa febbre eccessiva. Si deve avere un'etica, una cultura, sapendo che si può anche perdere, sapendo che l'arbitro che fa errori e sempre ne farà, come lo fanno i giocatori, come lo fanno gli allenatori e come lo fanno i dirigenti, come lo fanno la federazione, bisogna accettarle. Non è possibile creare questa esasperazione. C'ha ragione lei che diceva il caldo nei palazzetti e anche nelle menti di tanti dirigenti. Sì, non c'è dubbio, c'è anche un problema probabilmente climatico che aiuta ad accendere un pochino gli animi. Presidente, ma lei già dopo gli episodi delle semifinali, purtroppo episodi tristi, dentro e fuori dai palazzetti, aveva invitato un po' tutti ad abbassare i toni per il bene della pallacanestro italiana. Ha l'impressione di non riuscire a farsi ascoltare compiutamente? No, io ho impressione di riuscire, perché mi devono ascoltare, perché rappresentiamo la federazione, le leggi del basket italiano. Chi ci vuol stare ci sta, chi non ci vuol stare è la legge. Anche come cittadino devo rispettare delle leggi. L'esasperazione non paga. Io dico sempre che aspetto dalla Lega delle proposte. Valentino Renzi rappresenta la Lega e deve essere rispettato da tutti i dirigenti. C'è un limite a tutto. Non è possibile. Io capisco gli sfoghi dei presidenti, io capisco lo sfogo che mi ha fatto anche il presidente Toti questa notte, perché ha investito, perché 12 anni che investe, perché non è facile in una piazza come Roma. Si deve anche capire però che il sorteggio arbitrale l'hanno voluto le società, oggi c'è il sorteggio arbitrale e il risultato del campo deve essere sempre accettato. Gli insulti non pagano mai, il violento non vincerà mai, finché Petrucci è presidente della federazione, ma devo dare atto anche a Dino Meneghin, a tutti i presidenti. Ci sono delle regole, le regole devono essere rispettate. Quindi lei ritiene inaccettabile quando Toti dice non c'è parità competitiva, c'è un problema di credibilità, lascia intendere? No, io non lo so se Toti volesse dire questo, perché come diceva quel bravo avvocato non le capisco tante cose io. Non le capisco perché quando si vince c'è eguaglianza competitiva, quando si perde non c'è, troppo facile. E allora non servirebbero i giudici. Ci sarebbe il caos, come si diceva prima della creazione del mondo, quando eravamo a scuola alle elementari, c'era sulla lavagna il maestro che diceva prima il caos e poi la creazione del mondo. No, io non credo a queste cose. Rispetto i presidenti, capisco i loro sfoghi, ci sono limiti a tutto. Quindi la pallacanestro italiana, questo è il messaggio, è molto meglio di come viene dipinta in queste settimane bollenti nei palazzetti italiani, soprattutto da no, ma io dico che tanti vorrebbero avere la forza che c'è la pallacanestro, il pubblico che c'è la pallacanestro. Le altre federazioni ci invidiano, ognuno è convinto che la propria federazione sia importante, ma basta vedere i dati, chi dà più soldi allo Stato dopo il calcio e il basket, chi ha più diritti si ha, paga più diritti si ha il basket, perché da quando si paga il biglietto si vede se uno sport è amato, per il resto sono tutte parole. A noi ci manca ancora il risultato della nazionale, però abbiamo una nazionale femminile che ha passato il primo turno con 2 punti, ci confronteremo, siamo tra le prime 8 d'Europa. La federazione sta facendo dei grossi passi avanti, non è meglio di Petrucci, ma di un movimento che ancora crede nella bellezza del proprio sport. Non c'è dubbio, ci sono segnali di vitalità. Per chiudere, Presidente, questi segnali di vitalità ci sono sui giornali oggi, però anche la notizia, ad esempio, che Roma potrebbe rinunciare all'Eurolega per problemi economici, organizzativi. Adesso, senza entrare nello specifico, io credo che si possa però lanciare un appello a fare di tutto perché Roma ci sia l'anno prossimo ad esercitare un diritto che si è guadagnata sul campo, perché sarebbe un segnale negativo, io credo il contrario. Ma io me lo auguro, non dipende da me, dipende dal presidente della società. Roma ha fatto uno straordinario campionato, comunque finisca, e peraltro è aperto ancora il risultato quando noi stiamo parlando. La realtà è che Roma ha conquistato sul campo il diritto di partecipare alla massima competizione europea. Non dobbiamo perdere questa carta. Il tutto è nelle mani del presidente Toti e io rispetterò le sue scelte. Certo, la presidente federale vuole che partecipasse. Non c'è dubbio, grazie Presidente. Prego. Grazie a Gianni Petrucci, 349 238 6666. Beh, le polemiche sugli arbitri anche nella pallacanestro pagano tutti meno gli arbitri, scrive Franco. Oppure ancora un altro amico, le regole non valgono per Siena. E ancora Luca che scrive, la squadra delle banche viene protetta, che strana coincidenza. Clima avvelenato quello che sta accompagnando questo finale di stagione nella pallacanestro, e lo ripetiamo, è un peccato perché mai come quest'anno i playoff hanno attirato una grandissima attenzione intorno al nostro campionato. Ricordo anche che questa notte, nella notte fra oggi e domani, c'è gara 6 della finale NBA, e quindi con una vittoria San Antonio potrebbe laurearsi campione NBA. Ne parleremo domani. Io saluto e ringrazio Giorgio De Luca, autore di questo programma, Roby Scaltritti in regia. Un saluto da Giovanni Capuano, appuntamento domani alle 14:00.